Dialogo 23esimo. Raccontò Amr bin Abasa: mi recai dall'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la abbia in gloria, e gli chiesi: o apostolo di Allah, chi c'è con te in questo affare? Rispose: c'è l'uomo libero e quello in schiavitù. Chiesi: cos'è l'Islam? Rispose: è bontà nel parlare e dare da mangiare. Chiesi: cos'è la fede? Rispose: pazienza e indulgenza. Chiesi: cos'è il meglio dell'Islam? Rispose: è il comportamento di colui dalla cui lingua e dalla cui mano i musulmani non ricevono danno. Chiesi: cos'è il meglio della fede? Rispose: è la buona condotta. Chiesi: qual è la migliore devozione? Rispose: quella protratta in sincera umiltà. Chiesi: qual è la migliore emigrazione? Rispose: è quella da ciò che ad Allah non piace. Chiesi: qual è lo sforzo migliore? Rispose: è quello in cui la cavalcatura del combattente viene uccisa e il sangue di lui viene versato per il trionfo della causa di Allah. Chiesi: qual è l'ora migliore? Rispose: quella mediana dell'ultima parte della notte.